Robert ci lasciò alla stazione. «Ma può darsi che tu debba aspettare quasi un'ora», mi disse. «Se ti fermi qui incontrerai di sicuro mio zio Charlot, che riparte questo pomeriggio col treno per Parigi, 10 minuti prima del tuo. Io l'ho già salutato perché devo rientrare prima che lui parta. Non ho potuto parlargli di te perché non avevo ancora ricevuto il tuo telegramma». Ai rimproveri che le rivolsi quando Saint-Loup se ne fu andato, Albertine replicò che, mostrandosi fredda con me, aveva voluto cancellare, per ogni evenienza, l'impressione che avrebbe potuto avere Robert se al momento dell'arrivo del treno mi avesse visto chino su di lei e col braccio attorno alla sua vita. In realtà Robert aveva notato quell'atteggiamento. Io non m'ero accorto di lui, altrimenti sarei rimasto seduto più correttamente al fianco di Albertine. E aveva fatto in tempo a sussurrarmi all'orecchio: «Sarebbero queste le fanciulle così smorfiose di cui mi hai parlato e che non volevano frequentare Mademoiselle d'Estermaria perché la trovavano poco per bene?» Gli avevo detto, in effetti, con assoluta sincerità, quando da Parigi ero andato a raggiungerlo ad Ancier, e poiché si riparlava di Balbec, che con Albertine non c'era niente da fare, che era la virtù fatta persona. E adesso, che per conto mio avevo scoperto da molto tempo quanto fosse falso, tanto più desideravo che Robert lo credesse vero. Mi sarebbe bastato dirgli che amavo Albertine. Era una di quelle creature capace di negarsi un piacere per risparmiare a un amico sofferenze che sentirebbero come proprie. «Sì, è molto bambina, ma sai niente di lei», aggiunsi con inquietudine. «Niente, se non che vi ho visti nell'atteggiamento di due innamorati». «Il vostro comportamento non cancellava un bel nulla», disse ad Albertine quando Saint-Loup se ne fu andato. «È vero», ammise. «Sono stata maldestra, vi ho dato un dispiacere, ne sono molto più infelice di voi. Vedrete che non lo farò mai più, perdonatemi», concluse tenendomi la mano con aria triste. In quel momento, in fondo alla sala d'attesa, dove eravamo seduti, vidi passare lentamente, seguito a una certa distanza da un facchino che portava le sue valigie, il signor di Charlot. A Parigi, dove lo incontravo unicamente in occasione di qualche serata, immobile, fasciato da un abito da sera, mantenuto eretto dalla fierezza del portamento, dall'impetuoso desiderio di piacere, dai fuochi artificiali della sua conversazione, non mi ero reso conto fino a che punto fosse invecchiato. Adesso che, in un completo da viaggio chiaro che lo ingrossava, camminava ancheggiando, facendo dondolare una pancia alquanto sporgente e un sedere quasi simbolico, la crudeltà della luce del sole decomponeva in rossetto sulle labbra, in cipria fissata dal cold cream sulla punta del naso, in tintura sui baffi il cui nero ebano contrastava con i capelli brizzolati. Tutto ciò che alla luce dei lampadari sarebbe parso il colorito vivace di una persona ancor giovane. Mentre parlavo con lui, ma brevemente a causa del suo treno, guardavo lo scompartimento di Albertine per farle segno che stavo arrivando. Quando mi girai verso Charlot, questi mi pregò di chiamargli un militare, suo parente, che era dall'altra parte del binario, proprio come se dovesse salire sul nostro treno, ma in senso inverso, nella direzione che si allontanava da Balbec. «È nella banda del reggimento», mi disse Charlot. «Poiché voi avete la fortuna d'essere abbastanza giovane, io la disgrazia d'essere abbastanza vecchio perché possiate evitarmi da attraversare e arrivare fin là», mi feci un dovere di raggiungere il militare indicatomi dal barone e vidi in effetti, dalle lire ricamate sul suo colletto, che faceva parte della banda. Ma mentre stavo per sbrigare la commissione, quale non fu la mia sorpresa, e posso dire il mio piacere, nel riconoscere Morel, il figlio del cameriere di mio zio, che mi faceva ricordare tante cose. Mi dimenticai dell'incarico affidatomi dal signor di Charlot. «Come? Siete ad Ancier?» «Sì, e mi hanno assegnato la banda, al servizio delle batterie». Ma nel rispondermi aveva un tono secco e altezzoso. Aveva assunto modi molto affettati e la mia presenza, evidentemente, rammentandogli la professione di suo padre, non gli faceva piacere. A un tratto vedi Charlot piombare su di noi. Il mio ritardo doveva avergli fatto perdere la pazienza. «Vorrei stasera sentire un po' di musica», disse a Morel senza alcun preambolo. «Offro 500 franchi per la serata. Forse la cosa potrebbe interessare qualche vostro amico della banda, se ne avete». Per quanto conoscessi l'insolenza del signor di Charlot, trovai stupefacente che non avesse nemmeno salutato il suo giovane amico. Il barone, del resto, non mi lasciò il tempo di riflettere. Tendendomi affettuosamente la mano, «Arrivederci, caro», mi disse, per segnalarmi che era ora che me ne andassi. D'altronde, avevo lasciato anche troppo a lungo sola la mia cara Albertine. «Vedete», le dissi risalendo nello scompartimento, «la vita balneare e la vita di viaggio mi fanno capire che il teatro del mondo ha più attori che scene e più situazioni che attori». «A che proposito lo dite?» «Perché il signor di Charlot mi ha chiesto di chiamargli un suo amico nel quale un attimo fa, sul marciapiede di questa stazione, ho riconosciuto un amico mio». Ma mentre le rispondevo così, mi chiedevo come il barone potesse conoscere la sproporzione sociale alla quale non avevo pensato. La prima idea che mi venne fu che il tramite fosse stato Jupien, la cui figlia, come si ricorderà, era parsa invaghirsi del violinista. Non riuscivo tuttavia a capacitarmi che il barone, dovendo partire per Parigi entro 5 minuti, manifestasse il desiderio di sentire della musica. Ma rivedendo nel ricordo la figlia di Jupien, cominciavo a pensare che i riconoscimenti esprimerebbero al contrario una parte importante della vita se fossimo capaci di spingerci sino al romanzesco autentico, quando di colpo, in un lampo, capì d'essere stato davvero ingenuo. Charlot non conosceva minimamente Morel, né Morel Charlot, il quale, folgorato ma anche intimidito da un militare, sebbene sulle sue mostrine non ci fossero che delle semplici lire, era ricorso a me nella sua emozione perché gli conducessi una persona che non poteva sospettare mi fosse nota. In ogni caso, l'offerta di 500 franchi aveva certo supplito, per Morel, all'assenza di relazioni anteriori, giacché vidi che continuavano a parlare senza rendersi conto d'essere accanto al nostro tram. Ripensando al modo in cui Charlot era piombato su Morel e me, coglievo la somiglianza con certi suoi parenti quando, per strada, puntavano una donna. Semplicemente l'oggetto preso di mira aveva cambiato sesso. A partire da una certa età, e anche se evoluzioni diverse si compiono dentro di noi, più si diventa se stessi e più si accentuano i tratti di famiglia. La natura, infatti, mentre combina armoniosamente il disegno del suo arazzo, interrompe la monotonia della composizione con la varietà delle figure che vi inserisce. Del resto, l'alterigia con cui il signor di Charlot aveva squadrato il violinista è relativa a seconda del punto di vista che si adotta. Essa sarebbe stata riconosciuta da 3/4 degli appartenenti al gran mondo che si inchinavano a lui, non dal prefetto di polizia il quale, alcuni anni dopo, lo faceva sorvegliare. «Il treno per Parigi è in arrivo, signore», disse il facchino che portava le valigie. «Ma io non prendo il treno, scaricate tutto quanto al deposito bagagli, che diamine!» replicò Charlot, porgendo 20 franchi al facchino, stupefatto del cambiamento ed estasiato dalla mancia. La generosità del barone attirò subito una fioraia. «Prendete questi garofani, ecco questa bella rosa, buon signore, vi porterà fortuna!» Charlot, spazientito, le diede 40 soldi, in cambio dei quali la donna offrì le sue benedizioni e di nuovo i suoi fiori. «Mio Dio, se potesse lasciarci tranquilli!» disse Charlot, rivolgendosi in tono ironico e lamentoso, da uomo esasperato, a Morel, non senza trovare una qualche dolcezza nel chiederne l'aiuto. Quel che dobbiamo dire è già abbastanza complicato. Forse, poiché il facchino non era ancora molto lontano, Charlot preferiva non avere un uditorio numeroso. O forse quelle frasi incidentali consentivano alla sua timidità altezzosa di non abbordare troppo direttamente la richiesta d'un appuntamento. Il musicista, volgendosi con piglio franco, imperativo e risoluto verso la fioraia, alzò una mano aperta che la respingeva, facendole capire che i suoi fiori non interessavano e che doveva togliersi al più presto dai piedi. Il signor di Charlot osservò con rapimento quel gesto autoritario e virile compiuto da una mano graziosa, cui pareva dovesse risultare ancora troppo pesante, troppo gravemente brutale, con una fermezza e una disinvoltura precoci che davano a quell'adolescente ancora imberbe l'aspetto di un giovane David, capace di sostenere un combattimento contro Golia. L'ammirazione del barone si tingeva involontariamente del sorriso che ci sfugge nel vedere un fanciullo assumere un'espressione troppo grave per la sua età. «Ecco un giovane dal quale mi piacerebbe essere accompagnato nei miei viaggi e aiutato nelle mie faccende. Come mi semplificherebbe la vita!» si disse il signor di Charlot. Il treno per Parigi, che il barone non prese, partì. Noi due, Albertin e io, salimmo sul nostro senza che io potessi capire come sarebbe finita fra Charlot e Morel. «Non dobbiamo mai più litigare. Vi chiedo ancora perdono», mi ripete Albertin, alludendo all'incidente Saint-Loup. «Dobbiamo essere sempre carini l'uno con l'altro», aggiunse teneramente. «Quanto al vostro amico Saint-Loup, se credete che mi interessi in un qualsiasi modo, vi sbagliate di grosso. L'unica cosa che mi piace in lui è che ha l'aria di volervi un gran bene». «È un ragazzo molto buono», osservai, guardandomi bene dal prestare a Robert immaginarie qualità superiori, come non avrei mancato di fare per amicizia verso di lui parlando con qualsiasi altra persona. «È una creatura squisita, sincera, devota, leale, su cui si può fare affidamento in tutto e per tutto». Dicendo questo, mi limitavo, trattenuto dalla mia gelosia, a dire la verità sul conto di Saint-Loup. Ma era pur sempre la verità, quella che dicevo. Ora essa si esprimeva esattamente negli stessi termini di cui s'era servita per parlarmi di lui Madame de Villeparisis, quando ancora non lo conoscevo, quando lo immaginavo così diverso, così altero, e mi dicevo: «Lo trovano buono perché è un gran signore». Allo stesso modo, quando la marchesa m'aveva detto: «Ne sarebbe felice», mi figurai, dopo averlo visto davanti all'albergo seduto a cassetta, che le parole di sua zia fossero pura banalità mondana, destinata a lusingarmi. E poi m'ero reso conto che le aveva dette sinceramente, pensando a quello che mi interessava, alle mie letture, e perché sapeva che erano le stesse cose amate da Saint-Loup. Così come in seguito avrei avuto occasione di dire sinceramente a un tale che lavorava a una biografia del suo antenato, La Rochefoucauld, l'autore delle Massime, e che era incerto se andare a chiedere dei consigli a Robert: «Ne sarà felice». Il fatto è che avevo imparato a conoscerlo. Mentre, vedendolo per la prima volta, non avevo supposto che un'intelligenza affine alla mia potesse celarsi sotto tanta eleganza esteriore di vestiario e di portamento. L'avevo giudicato dal suo piumaggio d'una specie diversa. Adesso fu Albertin, forse perché Saint-Loup, per bontà verso di me, era stato così freddo con lei, a dirmi quello che io avevo pensato allora. «Ah, davvero? È così devoto? Ho l'impressione che si trovino sempre tutte le virtù alla gente che appartiene alla Faubourg Saint-Germain». Ora, che Saint-Loup appartenesse al Faubourg Saint-Germain era una cosa a cui non avevo più pensato una sola volta nel corso degli anni durante i quali, spogliandosi del suo prestigio, m'aveva rivelato le sue virtù. Cambiamento di prospettiva nel guardare le persone che, già più impressionante nell'amicizia che nelle semplici relazioni sociali, lo è ancora di più nell'amore, dove il desiderio porta a una scala così smisurata ingrandisce in proporzioni tali i minimi segni di freddezza che ce n'era voluta molto meno di quella manifestata sulle prime da Saint-Loup perché io mi credessi da principio disprezzato da Albertine, immaginassi le sue amiche come esseri meravigliosamente sovrumani e attribuissi solo all'indulgenza che si prova per la bellezza e per una certa eleganza il giudizio di Elstir quando mi diceva della piccola banda, proprio come Madame de Villeparisis di Saint-Loup. Sono brave ragazze. Ebbene, non era forse questo il giudizio che io stesso ora avrei pronunciato volentieri sentendo dire da Albertine: in ogni caso, devoto o no, spero proprio di non rivederlo, dato che ci ha fatto litigare. Non dobbiamo mai più arrabbiarci noi due, non è carino. Da quando mi era parso che desiderasse Saint-Loup, mi sentivo pressoché guarito, per qualche tempo, dall'idea che le piacessero le donne, figurandomi che le due cose fossero inconciliabili. E davanti all'impermeabile di Albertine, dentro il quale la mia amica sembrava diventata un'altra persona, l'instancabile, errante dei giorni piovosi e che in quel momento, appiccicato, malleabile e grigio, dava l'impressione non tanto di dover proteggere i suoi vestiti dall'acqua, quanto piuttosto d'esservi stato inzuppato perché, incollandosi al suo corpo, prendesse l'impronta delle sue forme come per uno scultore, strappai quella tunica che aderiva così gelosamente a un seno desiderato e attirando a me Albertine. Ma tu, indolente viaggiatrice, non vuoi tu sognare sulla mia spalla posandovi la tua fronte? Le dissi, prendendone la testa fra le mani e mostrandole le grandi praterie inondate e silenziose che si stendevano nel declinare del giorno sino all'orizzonte chiuso da catene parallele di avvallamenti lontani e cilestrini.